Permettetemi di riprendere l'argomento della trasmissione che ci ha preceduto. Io vi confesserò che anche se un certo numero di amici miei, compreso qualcuno di cui, del cui parere faccio molto conto, ha espresso una certa qual preoccupazione in merito, io personalmente non riesco ad aver paura del referendum per l'indipendenza della Padania che quei burloni della Lega Nord hanno indetto per la giornata di oggi. Io concordo pienamente con quanti osservano che più che di referendum si tratta di una manovra di propaganda che non ha nessun valore di legittimazione, figuriamoci. Ma che volete? Ormai i vari pannelli hanno trascinato l'istituto del referendum così in basso che fare peggio proprio non si può. E non riesco a considerare del tutto disdicevole un'iniziativa in cui, in vista di un obiettivo che in sé, tutto sommato, è lecito, si chiede alla gente di dichiarare cosa ne pensa. In un paese in cui un'apposita commissione è riuscita a licenziare una bozza di riforma federale dello Stato senza che l'aggettivo federale vi compaia mai una volta, ed evitando accuratamente di esprimersi sull'articolo della Costituzione che dichiara la Repubblica una indivisibile, beh, a me sembra che qualche chiara dichiarazione di intenti non possa fare che del gran bene a tutti. Visto che ci siamo, e visto che ci siamo, vi dirò anche che non mi dispiace affatto lo slogan del manifesto che gli amici di Bossi hanno fisso per ogni dove. Mi sbaglierò, ma in quel Padania pacificamente a me sembra di leggere una certa prevalenza dell'avverbio sul sostantivo. Che nella lotta politica prevalgano i comportamenti pacifici è un fatto di cui non possiamo che rallegrarci. Ciò premesso e visto che a questo tipo di consultazione per fortuna non si applica ancora da par condicio, approfitto dell'occasione per assicurarvi, se la cosa casualmente vi interessa, che io alla Padania non credo. È un po' un assurdo storico e geografico, elaborato da menti che evidentemente sono a digiuno di storia e di geografia, nasce dal desiderio di liberarsi di certi premi reali addebitandovi in toto a degli altri, e credo che quelli che ambiscono a esserne cittadini non abbiano più probabilità di realizzare il proprio obiettivo di quante ne abbiano di stabilirsi nella contrada che si chiama del Bengodi, in cui, come ricorderete, legano le vigne con le salsicce e c'è una montagna di parmigiano grattugiato sopra la quale stangenti che di una cosa fanno che far maccheroni e ravioli in brodo di capponi e poi gli gittano giù e chi più ne piglia più ne ha. Ma purtroppo è lontano miglia millanta che tutta la notte canta, come ricordava il Boccaccio nella terza novella della settima giornata del Decameron. Però c'è un'altra precisazione che spero mi lascerete fare. Il fatto che io non creda alla Padania non mi obbliga, ripeto, non mi obbliga, a condividere le prediche baltiche del presidente Scalfaro. Anche se a chi comanda fa comodo presentarcele così, queste scelte non sono di quelle che tecnicamente si definiscono a somma zero, è quella in cui l'ipotesi A esclude per definizione l'ipotesi B e viceversa, senza lasciare spazio ad altre possibilità. Se qualcuno mi chiede come si faceva una volta con i referendum seri, prima che ci mettesse le mani pannella, se qualcuno mi chiede se io voglio che la tar legge sul divorzio, sull'aborto, sulla caccia, sulla figura del segretario comunale, non lo so, che mi chiede se voglio che la legge sia abrogata, non posso rispondere altro che sì o che no. Al massimo posso dire che non me ne frega niente, ma questo non sta bene. Se invece uno mi chiede se io sono per l'Italia o per la Padania, non sono obbligato a scegliere più di quanto chi non è tifoso del Milan sia costretto a tenere per l'Inter. Io posso benissimo dire che non sono per nessuno delle due. E per quanto mi sia antipatico Bossi, non voglio che questa antipatia mi costringa a improvvisarmi crociato dell'unità nazionale, che, visto che siamo in argomento, è stata sancita 136 anni fa con una serie di referendum, allora si chiamavano plebisciti, ancora meno seri di quello che la Lega Nord celebra oggi. Che volete che vi dica? L'ipotesi padana sarà anche il massimo dell'egoismo antisolidale, ma questa nostra Repubblica, ancorché in procinto di quasi federalizzarsi, non mi sembra offrire molte prospettive migliori. Nei miei anni formativi, io ho imparato, credo di aver imparato, che le classi oppresse non hanno nazione. E anche se questa amara verità oggi è un po' fuori moda, spero mi riconoscerete il diritto di abbracciarla, in nome di quell'internazionalismo a cui spero che un giorno o l'altro l'umanità intera avrà la ragionevolezza di aderire, e questi in fondo, qual più qual meno, sono problemi miei. Ma non manca di un certo interesse generale la constatazione secondo la quale non è mica Bossi che ha pronunciato la vergognosa legge sull'immigrazione che ci affligge in questa Repubblica, e che non sarà Bossi tra 4 settimane a deportare oltre il canale di Otranto le tante migliaia di albanesi che sono venuti a cercare rifugio e speranza nel nostro paese. Questo non significa naturalmente che non sia colpevole anche lui, La volontà stessa di proporci una scelta come quella di propone, di farci schierare per Mantova contro Roma o viceversa, è il contributo migliore che possa dare alla causa di tutti coloro che in nome della Padania, dell'Italia, dell'Europa di Maastricht o di qualsiasi altra patria più o meno inventata non si stancano di predicare la necessità della subordinazione altrui.